giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Si scontano ancora gli effetti delle piogge intense di ieri che hanno causato l'esondazione del Rio Ospo e di alcuni torrenti nella zona di Muggia. Vigili del fuoco e privati ancora all'opera per rimuovere il fango da negozi e abitazioni. Sul fronte del meteo continuerà il freddo, ma non le piogge intense. La prossima settimana, prevedono i meteorologi, si potrebbe però tornare a temperature più miti. Ampezzo si prepara all'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Domani mattina parteciperà alle celebrazioni per l'80° anniversario della zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli. Ucciso con 85 coltellate a Udine per l'unico imputato per la sua morte, Bruno Macchi, il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo per omicidio volontario aggravato dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla minorata difesa della vittima, Luca Tisi. Un parroco triestino scende in campo contro i bulli di quartiere. Dopo le messe della domenica, nella chiesa di Roiano, ha invitato i genitori a captare i segnali dei figli. Chi è vittima ha esortato denunci. Il giorno dopo la presentazione del piano, che in 10 anni di lavori cambierà il Porto Vecchio di Trieste trasformandolo in un quartiere della città, fioccano le critiche delle opposizioni. Sarà un rione per ricchi, obiettano o chiedono rassicurazioni sulla solidità della ditta appaltatrice. Il comune di Duino Risina chiede alla regione di spostare a largo le vasche per l'itticoltura. Sarebbero un rischio per l'ambiente e rovinano il panorama. Il Teatro Verdi ha presentato la sua stagione sinfonica, 8 appuntamenti da domenica fino al 22 dicembre, spazio ai grandi solisti internazionali e collaborazione con le società dei concerti. Il restauro dell'antica libreria antiquaria Umberto Saba di Trieste si concluderà a metà ottobre. La comunità ebraica la consegnerà agli eredi del custode della bottega, ma ancora non si sa quale sarà la sua destinazione. Presentato il calendario degli eventi culturali della 56esima edizione della Barcolana, musica, teatro, mostre, racconti e testimonianze collegheranno la terraferma al mare il 4 ottobre, il concerto dei Subsonica. Ancora buongiorno, ben ritrovati da Andrea Maruscic e Francesca Vigori. In apertura all'onda lunga del maltempo di ieri, si lavora ancora per rimediare ai danni. A Trieste, nella zona di Muggia, è ancora in corso in queste ore la rimozione del fango dai negozi dell'area commerciale Arcobaleno, che ieri è finita sott'acqua, e in alcune abitazioni private. A Muggia, in Varosandra, sono caduti 100 mm di pioggia in poco tempo contro i 65 mm di Trieste. Al parco commerciale Arcobaleno si lava via il fango come si può dai pavimenti dei negozi. Ad aiutare arrivano anche le pompe della Protezione Civile. Il rio San Clemente si è ingrossato in pochi minuti ieri e nessuno ha fatto in tempo a portare al sicuro scarpe e vestiti. L'acqua è entrata anche nei magazzini, ora si contano i danni. Il centro commerciale è stato evacuato e ancora oggi la maggior parte dei negozi è chiusa. I manichini sono in piedi nelle pozze d'acqua. Qualche cliente smarrito si avvicina alle vetrine scivolando su uno spesso strato di fango. Poco lontano dal parco Arcobaleno c'è il rio Menariolo e il torrente Ospo. Anche questi ieri sono esondati. Alcune abitazioni private nei pressi dei laghetti delle Noghere e a Vignano sono stati invasi dall'acqua. Il rio Ospo è ancora ingrossato. Ma il peggio è passato. La viabilità è tornata alla normalità. A complicare la situazione ieri sono stati i rami e le foglie portati dai torrenti, che si sono bloccati sotto i ponti stradali. È quello che è successo nel punto in cui il torrente Rosandra passa sotto via Flavia, che ieri è stata chiusa nel tratto tra Trieste e Muggia. Anche il Rosandra ieri è esondato, causando allagamenti soprattutto nella zona di Dolina e in quella di Domio. Frane si sono verificate nelle frazioni di Prebenico e Caresana, ma la terra caduta è stata spostata dalla viabilità già ieri. 18 volontari della Protezione Civile hanno lavorato per tutta la giornata insieme alle altre forze di soccorso. Non era mai successo nulla del genere in quell'area, afferma il sindaco di Muggia Paolo Polidori. Questa volta il centro della cittadina non è stato allagato. Dovremmo capire come mai i disagi si sono concentrati sulla zona delle Noghere. Muggia, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo al tempo, cielo da nuvoloso a coperto sulla regione, le temperature registrate alle 11, Trieste 15 gradi, mare mosso con temperatura di 23 gradi, Udine, Gorizia e Pordenone 16 gradi, Tarvisio e Sappada 6 gradi, Piancavallo 8, Tolmezzo 10, Forni di Sopra 11 gradi, Monte Lussari meno 1 grado, Monte Zoncolan 2 gradi, Lignano è grado 16 gradi, temperatura del mare a Lignano 20, a grado 22. Quanto all'evoluzione in serata e per la giornata di domani, ci aggiorna Marcellino Salvador, meteorologo dell'ARPA. Per quanto riguarda il tempo in regione nel pomeriggio e in serata, diciamo innanzitutto che la perturbazione si sta esaurendo, ciononostante rimane il freddo per la stagione, siamo a temperature decisamente più basse di quelle che si dovrebbero avere a metà settembre. Per quanto riguarda i venti, saranno invece in attenuazione per quanto riguarda la costa, in aumento invece per quanto riguarda i monti, specie in quota, in alta quota avremo venti forti e freddi, questo fino a tutta la giornata di sabato. Sto parlando di quote oltre 1.000-1.500 metri circa, dove vi saranno condizioni di fatto invernali. Per quanto riguarda pianura e costa, invece prevalenza di cielo nuvoloso coperto, però non ci dovrebbe essere piogge significative, al limite qualche pioggia residua ci può stare, ma non è quella più la caratteristica del tempo. Rimane invece, come già detto, le temperature più basse rispetto alle norme del periodo. Per le temperature bisognerà aver pazienza, risaliranno un po' la prossima settimana gradualmente, probabilmente intorno al 20 si riporteranno ai valori medi attesi per questo periodo che sta a cavallo tra la seconda e la terza decade, intorno al 20 forse ritorneremo sui 24-25 gradi, quindi una situazione più normale. Dopo questi forti sbalzi tra l'inizio settembre estremamente caldo e poi questa fase che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo in questi giorni, estremamente fredda per quanto riguarda settembre. È tutto pronto da un pezzo per le celebrazioni dell'80° anniversario della zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, visita confermata solo ieri per il lutto recente che ha colpito il Presidente. Ampezzo è pronta a celebrare gli 80 anni della zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli alla presenza del presidente Mattarella. Una visita confermata soltanto ieri dopo l'annullamento di tutti gli impegni ufficiali per la scomparsa della nipote del presidente. Nel paese è stata allestita una struttura che possa mettere tutti a riparo dalle condizioni del tempo, anche se non è prevista pioggia. Alle 9:15 l'alza bandiera con gli uomini del comando militare dell'esercito del Friuli Venezia Giulia. In mattinata, dopo l'atterraggio a Ronchi, l'arrivo in elicottero ad Ampezzo del Presidente della Repubblica. Subito dopo ci sarà la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti alla presenza del picchetto d'onore della Brigata Alpina Giulia, 8° Reggimento Alpini. Poi lo spostamento in municipio dove Mattarella incontrerà le autorità istituzionali del territorio. Subito dopo nella piazza di Ampezzo si svolgerà la commemorazione con gli interventi, tra gli altri, dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e le testimonianze dirette di chi ha vissuto i giorni della resistenza nella zona libera del 1944. Dopo la cerimonia, il Presidente della Repubblica visiterà privatamente la mostra Il Coraggio, allestita nella Casa delle Esposizioni di Illegio. A Palazzo Angelo Unfer di Ampezzo, invece, sarà possibile visitare la mostra dal titolo Perché resti in memoria. Domani sarà sospesa la circolazione veicolare nel territorio comunale di Ampezzo dalle 9 alle 12. Ampezzo, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E oggi sarà in regione il Vice Ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. A Pordenone, a Trieste, l'incontro con i vertici del Tribunale e della Corte d'Appello. Alle 15, sempre a Trieste, all'Auditorium del Museo Revoltella, interverrà il convegno La pena e la realtà carceraria, organizzato dall'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati. Ergastolo e la richiesta della pubblica accusa nei confronti di Bruno Macchi, il 29enne reo confesso dell'omicidio del senza tetto di 58 anni Luca Tisi, commesso all'alba del 15 aprile dello scorso anno nella Galleria Alpi di Udine. Ora in corso la ringa difensiva, la sentenza è prevista il 27 settembre. Bruno Macchi ha agito perché aveva voglia di uccidere, punto. Lo hanno riferito i testimoni che avevano parlato con lui prima dell'omicidio di Luca Tisi e lui stesso nel primo interrogatorio. Con queste parole la PM Lucia Terziariol ha concluso la ricostruzione delle circostanze che hanno portato alla morte del senzatetto ucciso a Udine con 85 coltellate ad aprile 2023 e ha chiesto per l'imputato, il 29enne italo-brasiliano Bruno Macchi, la condanna all'ergastolo per omicidio volontario in base all'articolo 577 del Codice penale, con le aggravanti dei futili motivi, della crudeltà e della minorata difesa della vittima. Nella prima parte dell'udienza, davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Udine, presieduta dal giudice Paolo Milocco, la PM ha ricostruito lo svolgimento dei fatti in base alle testimonianze acquisite nel corso delle indagini e del processo e alle perizie scientifiche sulla scena del delitto, il sottopassaggio del supermercato di Piazzale Osoppo e di quelle medico-legali sul corpo di Tisi. e ha smontato la tesi della legittima difesa avanzata dai legali di Macchi, evidenziando le contraddizioni nelle versioni fornite dal giovane durante le indagini e il processo, che riguardano in particolare le tempistiche, il modo di svolgimento dei fatti e alcuni aspetti come la presunta ubriachezza di Macchi al momento del delitto e la sua abitudine di portare con sé un coltello. Tra poco inizierà la requisitoria degli avvocati della difesa, Massimiliano Basevi e Cristian Buttazzoni, che chiederanno per Macchi una condanna per omicidio volontario ma senza aggravanti, con il minimo della pena prevista, ovvero 21 anni. Contesteranno inoltre la mancata concessione di una perizia psichiatrica su Macchi, unica cosa, queste le parole dell'avvocato Basevi, che poteva mettere luce in quella galleria. La prossima udienza, durante la quale dovrebbe arrivare la sentenza, si svolgerà il 27 settembre. Udine, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. Chiama la polizia locale per chiedere aiuto con i cani del vicino e finisce in caserma per furto aggravato di energia elettrica e di acqua. È successo a Trieste, protagonista un 29enne cubano. L'uomo aveva contattato il nucleo di polizia ambientale della polizia locale perché non era più in grado di prendersi cura dei due Amstaff del vicino di casa, assente da un po' di tempo. Gli agenti hanno contattato subito il servizio pubblico veterinario per l'affidamento degli animali al canile comunale, ma durante il sopralluogo si sono anche accorti di allacciamenti sospetti al contatore dell'elettricità. Richiesto l'intervento di un tecnico di Acegas APS Anga, questi ha confermato la manomissione del contatore e la probabile forzatura anche della valvola dell'acqua a favore del cubano, che è stato condotto alla caserma della polizia locale e denunciato per furto aggravato. Il parroco di Roiano, a Trieste, scende in campo contro i bulli e i piccoli criminali di quartiere. Al termine della messa domenicale ha invitato i genitori a stare attenti ai segnali che arrivano dai ragazzi. Se sono vittime, esorta a denunciare i soprusi. Minorenni contro altri minorenni, un gruppo di 6-7 ragazzi dai 13 ai 17 anni che nell'ultimo anno hanno iniziato a infastidire anche con l'uso della forza, in alcuni casi persino minacciando l'uso del coltello, nel quartiere di Roiano. Fermano ragazzi fuori dal supermercato, dalla scuola, vicino alla chiesa, sulle scale dei ricreatori per proporre loro droga, marijuana o per chiedere soldi, a subire ragazzini delle scuole medie nella loro prima autonomia. Vengono avvicinati, sono intimoriti. Il parroco della chiesa di Roiano, Don Andrea Mosca, in costante contatto con le forze dell'ordine domenica scorsa, si è sentito in dovere di riflettere con la comunità. Che cosa ha detto alla comunità? Ma più che dire, ho proposto una domanda: come mondo adulto e come mondo adulto cristiano, come possiamo porci davanti a questa situazione di disagio? Chi sta soffrendo non sono solo le vittime di questi comportamenti a volte illegali, ma anche gli stessi ragazzi che li vanno a compiere. Quindi dobbiamo chiederci noi come adulti come poter aiutare i ragazzi a crescere in un modo diverso. Lei dice no all'omertà, quindi quando un ragazzo subisce qualcosa lo dice al genitore, bisogna denunciare. Innanzitutto bisogna dirlo al genitore, poi bisogna che i genitori non si chiudano nella loro rassegnazione, ma ne parlino tra di loro, ne parlino con le altre agenzie educative, sicuramente dove è necessario facciano riferimento alle forze dell'ordine. Più o meno un anno tutto questo? È sicuramente scoppiato tutto con il mese di giugno dell'anno scorso. Perché succede ora tutto questo? Ma forse è soltanto il riflesso di una situazione di disagio che lentamente è andata a costruirsi dopo il tempo del Covid, dopo il tempo della chiusura, dove i ragazzi probabilmente, ponendosi più in un rapporto esclusivo con i social, hanno perso un po' il contatto con il mondo di noi adulti. L'altra questione è che forse noi adulti stiamo diventando sempre meno incisivi nella vita dei nostri giovani. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo la presentazione del piano per l'urbanizzazione del Porto Vecchio di Trieste da parte della giunta di piazza, arrivano gli attacchi delle opposizioni che giudicano il progetto elitario o manifestano preoccupazione sulle garanzie di conclusione dei lavori. Una procedura decisionale poco trasparente, scarso coinvolgimento delle opposizioni e soprattutto un progetto che rischia di rivelarsi una grande speculazione edilizia sul piano del nuovo Porto Vecchio, che prevede una grande operazione di riqualificazione dell'area con residenze, alberghi, studentati, ma anche una spiaggia e una centrale di teleriscaldamento. Sono numerose le preoccupazioni sollevate dai rappresentanti dei gruppi di opposizione in consiglio a Trieste nella seduta della commissione seconda e terza. Il primo problema riguarda il mancato coinvolgimento dei consiglieri. La proposta è stata presentata ad agosto e le forze politiche sono state avvisate con forte ritardo. Giovanni Barbo, capogruppo Partito Democratico, Consiglio di Trieste. La documentazione completa non è ancora arrivata a tanti consiglieri, per cui Noi crediamo che su una partita così importante e rispetto alla quale non ci possono essere errori, debba essere coinvolta non solo l'opposizione ma tutta la cittadinanza. Paolo Altine, capogruppo Lista Russo, Punto Franco. Ma questo è un progetto che è un'occasione unica per la città. Non ci possiamo permettere alcun tipo di errore, nemmeno quello più piccolo, perché pregiudica il futuro, i prossimi 20 anni, 30 anni della città. Un altro aspetto riguarda il progetto stesso. Secondo le opposizioni, il rischio è che si crei un quartiere non integrato con il resto della città, di cui potranno beneficiare in pochi. Riccardo La Terza, capogruppo Adesso Trieste. Una prevalenza di funzioni residenziali, alberghi di lusso, spazi commerciali che non sono spazi produttivi, che potrebbero invece portare lavoro di qualità e occasioni di sviluppo economico per una città, Trieste, che ne ha tanto bisogno, assume più i tratti di una operazione di speculazione immobiliare. I 5 Stelle invece chiedono rassicurazioni sullo stato di salute dell'azienda che ha presentato il progetto, la bergamasca Costim. Alessandra Richetti, capogruppo 5 Stelle. Sarà un impegno finanziario importante per questa azienda e quindi saremmo veramente interessati che l'amministrazione fornisca garanzie. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il comune di Duino Urisina, con una nota firmata dal sindaco Igor Gabrovez e dall'assessore all'ambiente e alle politiche del mare Lorenzo Zelic, ha richiesto alla regione di avviare un procedimento che consenta lo spostamento più a largo delle gabbie dell'allevamento ittico della società agricola Valle Ca Zuliani. La richiesta è motivata da aspetti ambientali, etici ed economici. Per il comune, le gabbie installate nello specchio acqueo prospiciente la costa di Duino Urisina hanno infatti un impatto ambientale e paesaggistico negativo. Tra gli elementi di rischio evidenziati figurano il rilascio di sostanze organiche, l'interazione dei farmaci con la flora batterica del fondale e l'impatto ambientale dei prodotti per la pulizia. Inoltre, il motivo di preoccupazione è l'effetto visivo, un elemento fondamentale per un comune a vocazione turistica come Duino Urisina. Da domenica 15 settembre fino al 22 dicembre torna la stagione sinfonica del Teatro Verdi di Trieste. Sono 8 i concerti in tutto, con grandi solisti ospiti e l'orchestra e il coro della Fondazione. Il servizio. L'ensemble cameristico del Teatro Verdi di Trieste saluta così, con il quintetto di Mozart in La maggiore per clarinetto, l'inizio della stagione sinfonica del Teatro Lirico. Dal 15 settembre fino a Natale, 8 appuntamenti. Apre il concerto di venerdì 27 settembre con il ritorno del direttore Hans Graf e del violinista Sergei Krylov. Il direttore artistico Paolo Rodda. Quest'anno suona la Sinfonia Spagnola di Lalo, è un pezzo molto importante del repertorio violinistico con l'orchestra, e apriamo anche con i quadri di un'esposizione di Mussorgsky, e quindi è un concerto, diciamo, abbastanza anche popolare. Il 5 ottobre il ritorno del direttore Art Munenken con il violinista Milenkovic e al violoncello Ettore Pagano. Un violoncellista che sta facendo veramente una carriera importante. Ci piace ricordare che ha debuttato tra le fondazioni, tra gli enti lirici, ha debuttato proprio da noi e oggi sta facendo, come dire, la sua presenza in tutti i cartelloni, non soltanto in Italia ma anche all'estero. 2 i concerti fuori abbonamento in collaborazione con la Società dei Concerti. Domenica 15 settembre con Giovanni Sollima, cofondatore dei 100 Cellos, e il 18 settembre con il direttore Will Hamburg e il pianista Nikolaj Luganski. Il sovrintendente Giuliano Polo. La stagione sinfonica scorsa ci aveva dato una grande soddisfazione come partecipazione di pubblico. Abbiamo 8 concerti e quindi siamo piuttosto ottimisti. Naturalmente faccio un appello affinché la gente venga in teatro. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Per il Festival di Trieste, il Faro della Musica andrà in scena stasera alle 20.30 al Ridotto del Verdi un connubio di musica e danza sulle note di Haydn e Bartok, eseguite dal sonoro quartet. Danzerà il ballerino Giacomo Calabrese, che proporrà una performance improvvisativa. Le abbiamo chiesto dove trova lo spunto per danzare su partiture che di solito non si prestano a spettacoli di danza. Lavoro con musicisti improvvisatori come me e insieme costruiamo la performance istantaneamente. In questo caso la musica, splendida peraltro e magistralmente seguita dal sonoro quartet, non mi permette ampio spazio di manovra, diciamo. devo comunque interpretare al momento qualcosa che è già scritto, filtrare attraverso il corpo e darle una restituzione visiva. Inoltre Haydn e Bartok sono autori veramente diversi che richiedono comunque, almeno per me come danzatore, un corpo poliritmico, quindi un diverso immaginario per entrambi. Lo spettacolo è un insieme di elementi, tra cui anche il pubblico, lo sguardo del pubblico. Assolutamente voglio che il pubblico trentino venga, perché il fenomeno dell'empatia è fondamentale per un lavoro del genere. Ho bisogno anch'io di essere sostenuto, quindi di avere un pubblico che mi guardi e che ascolti soprattutto la musica. Volevo ringraziare il direttore Mario Seco, Daniela Tartogo, Martina Spessotto e Valentina Cipria, che sono persone che mi hanno accudito in questi giorni. Si concluderà a metà ottobre il restauro dell'antica libreria antiquaria Umberto Saba di Trieste. La sua destinazione d'uso finale sarà decisa successivamente. La comunità ebraica e proprietaria dell'immobile la consegnerà agli eredi di quello che fu il custode della bottega. Dietro agli antichi scaffali di legno svuotati dai libri rivivono le decorazioni Liberty della carta da parati di inizio Novecento. Un accurato lavoro di restauro avviato a febbraio di quest'anno ha fatto rivivere anche un bellissimo parquet tornato alla sua essenza, al suo colore originale. Un pavimento che per decenni è stato coperto da pannelli di trucciolato e che darà più visibilità all'imponente colonna di pietra, ma soprattutto agli scaffali una volta che i libri saranno ricollocati nei loro spazi, e questo probabilmente avverrà nei prossimi giorni. Il restauro dell'antro scuro di Umberto Saba in via San Nicolò si sta dunque concludendo. Nel trasloco dei 28.000 volumi, 800 dei quali contengono commenti scritti da Umberto Saba e per questo sono vincolati dalla soprintendenza e custiti scrupolosamente in un'altra sede, saranno coinvolti volontari e studenti universitari, come già avvenuto prima dell'avvio del restauro. Un'operazione imponente sostenuta dalla comunità ebraica di Trieste, che è anche proprietaria dell'immobile, che prevede di consegnare le chiavi a metà ottobre alla figlia di Mario Cerne, che è l'erede e custode della bottega. È scomparso a inizio anno. Sarà lei a decidere sulla destinazione della libreria. Abbiamo cercato di contattarla senza ricevere alcuna risposta. Tra le ipotesi che circolano, quella di riaprire la libreria antiquaria, meno probabile invece la possibilità di allestire un piccolo museo aperto al pubblico. Trieste, Vaciuti, GR Friuli Venezia Giulia. Barcolana e il Comune di Trieste hanno presentato oggi il calendario degli eventi culturali collegato alla 56esima edizione della regata. Il primo appuntamento è previsto già domani con l'evento di ITS Academy Il mare sopra il mare, una conversazione sullo spazio. Confermato il grande concerto d'apertura venerdì 4 ottobre con i Subsonica. Del connubio tra cultura e mare ci ha parlato il presidente della società velica di Barcola e Grignano, organizzatore della Barcolana, Mitja Gialluz. Teatro, musica, cinema e testimonianze, ormai la cultura e la Barcolana sono un solido connubio. Abbiamo presentato al Comune di Trieste un ampio programma di eventi culturali che nasce dal basso, nasce dalla collaborazione della Barcolana con tante associazioni che hanno candidato il loro evento, il loro progetto culturale per inserirlo nel palinsesto, nasce da collaborazioni fondamentali con realtà consolidate nel territorio, da ITS al Trieste Film Festival, i teatri, la cooperativa Bonaventura, il teatro Bobbio, il teatro Sloveno, per arrivare a Barcolana, un mare di racconti, ormai giunto alla sesta edizione con la curatela di Alessandro Mezzenalona. Quindi una Trieste che durante la Barcolana riscopre la cultura del mare. Avremo la città tappezzata di moti marinari, di modi di dire, gergali e provenienti dalla cultura più alta. E poi si celebra anche un anniversario importante per la città. Marco Cavallo scenderà in città di nuovo. In una riscoperta di quello che è stato il ruolo di Basaglia, 100 anni dalla nascita, nella costruzione di una città aperta, di una città in cui sono caduti i muri dentro le persone, in cui si è guardato all'altro con fiducia. Ecco, oggi in un'epoca in cui si ricostruiscono i muri, io credo che la riaffermazione della idea di Marco Cavallo di un mondo in cui si crede che tutte le persone abbiano diritto a sviluppare la propria personalità è assolutamente una testimonianza attuale e importantissima. Il nostro giornale radio si chiude qui da Andrei Marusic e Francesca Vigori che lo hanno redatto e condotto, Paolo Cassano e Eugenio Giuffrida che hanno garantito la parte tecnica, Samantha Gon che ha collaborato in redazione. Grazie per la cortese attenzione. Buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.